felice amor mio, se goder deve della morte d'altri, ma non fia ver, si finga osira morta, per vedersi amore serba per mezza naida. E allor si faccia valese la mia colpa e poi si mora. Oh, del real perdono, s'abbia speranza ancora.